crows trying to flag a ride. Well, no one seemed to know me, everybody passed me by. Well, I went down to the crossroads, fell down on my knees. Well, I went down to the crossroads. Buonasera a tutti, Radio Cerrano Web torna con il blues e con Mississippi Mood. Buonasera, Radio Cerrano e in particolare il sottoscritto Carl e l'altro sottoscritto Vince Daddy Butterfly. Vi salutano, vi danno la buonasera e noi siamo felici ancora di essere qui, lo abbiamo detto più di una volta, la radio ci mette allegria, la radio ci mette anche energia e quindi insomma per noi è una godurria ogni sera, il martedì sera e poi il giovedì per me stare qui insieme a voi. E questa sera torna il blues e torna con un qualcosa di particolare, vero Vincenzo? Sì, questa sera parleremo dell'armonica, uno strumento fondamentale nell'ambito del blues, del Chicago Blues, che poi è diventato chiaramente uno strumento usato da tutti i gruppi che suonano il classico blues. E l'armonica ha determinato quel sound straordinario del Mississippi ed oltre. Storicamente arriva dalla fisarmonica, no? L'armonica. Beh sì, il suono si potrebbe anche comparare a quello che è un suono della fisarmonica, ma è tutto un altro stile, un'altra particolarità. Poi l'armonica nel blues siccome stiamo parlando di uno strumentino che poi l'armonica blues è molto piccolo, le note te le devi andare a cercare, devi avere una dimestichezza nel soffiare e nell'aspirare, cercare con la lingua quelle che sono poi le varie distorsioni. Diciamo che l'armonica è uno degli strumenti. Non ci giochiamo tutte le cartucce. Vabbè, ma tanto possiamo dire di tutto e di più, perché noi questa sera abbiamo sempre l'apporto del nostro tablet che ci garantisce sempre nuove notizie. Sì, questo è una scoperta veramente, questa storia del tablet. Io se ce l'avevo quando facevo i programmi all'epoca, io ci avevo tutto scritto, mi scrivevo, facevo le ricerche. Guarda. Sì, che poi valeva sempre poco perché c'era sempre qualcuno che ne sapeva di meno e qualcuno che ne sapeva di più. Vabbè, però insomma noi cercavamo di stare sempre tra quelle che ne sapevano di più. Sì, questa sera comunque, caro Carlo, cominciamo con uno dei maestri del Chicago Blues, l'armonicista che più ha dettato, diciamo, la strada, la via. Lui è un personaggio straordinario, grande amico di Muddy Waters, con il quale ha condiviso tantissimi palchi e soprattutto ha condiviso l'era più straordinaria del blues. Little Walter, Walking On. Bye. the crossroads, trying to flag a ride. Well, no one seemed to know me, everybody passed me by. Well, I went down to the crossroads. Diciamo che l'armonica diatonica, che è quella che si usa di più nel blues, sicuramente sì, viene chiamata anche blues harp. Blues harp. E quindi questa sera tutto verterà intorno a questo stupendo strumento, che tra parentesi bisogna dire anche questo, che l'armonica, dicevo, ha una derivazione, no, dalla fisarmonica, che comunque è quello strumento che veniva usato il più delle volte, prediletto dai giramondo, dai vagabondi, dagli artisti di strada. E un po' in questo l'armonica, quindi l'armonica a bocca, naturalmente ricalcano tutti quei discorsi che abbiamo fatto sul blues e sugli esordi del blues, quindi anche quel gruppo di gente che girava le strade, che faceva ballare, che faceva divertire anche, insomma. E i primi armonicisti blues hanno avuto l'ardire di ispirarsi a quel treno, a quella locomotiva che piano piano, sbuffando, comincia un pochino, come dire, a partire piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Noi questa sera abbiamo scelto questo brano che ci introduce, che è il famoso Crossroads di Robert Johnson. C'è una storia bellissima di Robert Johnson e di Willie Brown. Willie Brown è stato per lungo tempo il compagno e l'armonicista che ha condiviso il girovagare con Robert Johnson. Addirittura c'è un bellissimo film che si chiama Mississippi Adventure, dove possiamo vedere questo uomo, questo magico uomo che viene avvicinato da un ragazzo, da un appassionato di blues bianco, e incominciano loro due con una evasione dall'ospedale dove era ricoverato Willie Brown, e cominciano questo viaggio lungo le strade del Mississippi, lungo le strade del blues. Lui è un giovane chitarrista con l'aspirazione di diventare un chitarrista blues, e lui vuole nascondersi fino all'ultimo, fino a che non dice a questo ragazzo: sì, Willie Brown, io sono stato il grande amico di Robert Johnson e ho condiviso con lui tutte le cose più straordinarie. Aspetta, perché prima di mandare, di lanciare il brano, io dobbiamo salutare i nostri ascoltatori che ci seguono tramite video ascoltatori, perché comunque ci guardano anche, che ci seguono attraverso Facebook. Saluto Gianni, saluto Gabriella è ormai diventata una nostra affezionata, e questo ci fa molto piacere. Gabriella ci ascolta da Bucarest. Oh yeah. E poi Antonio non lo so da dove ci ascolta, ma sicuramente dai suoi post sicuramente mi conosce, anzi Antonio l'Avviatore. Sì, Antonio l'Avviatore. Lo sai chi è? No, ma sì, come non lo conosco Antonio l'Avviatore. Quello che guida gli aerei. Quelli che fa volare gli aerei. Sì, perché Antonio l'aereo lo prende lo prende, poi lo maneggia, lo fa volare. Bene, andiamo col prossimo brano. Adesso uno degli stilisti più straordinari, quel Sonny Boy Williamson, in un brano famosissimo, Help Me. Me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. with me. When I talk, you talk to me. Oh, baby, I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. Help me, darling. To the crossroad. Stiamo ascoltando comunque tutti i brani famosi, diciamo, del panorama blues, che hanno dentro degli assoli di armonica principalmente. Diciamo che l'armonica noi la dividiamo, io stasera Vincenzo mi ha dato il compito di fare il tecnico, non so da che cosa. No, io voglio solamente ascoltare la tua preparazione. Dove deficiti, io ti riprendo. Va bene. Perché ti ho detto di studiare in questi giorni. Sì, ma poi, tra parentesi, è una cosa, è un po' l'ho suonata io. Però ho suonata la diatonica. Allora, la differenza delle armoniche, quali sono? Le due armoniche più diffuse sono la diatonica e l'armonica. La diatonica naturalmente è quella che permette di suonare in una sola tonalità. Difatti tutti i musicisti blues hanno soprattutto tipo un, diciamo, un contenitore a spalliera oppure a cinta, dove loro mettono tutte le armoniche nelle varie tonalità, cominciando dal do e andando a finire fino al si. E quelli più esperti usano anche suonare con i bemolle e poi di conseguenza con i diesis. E appunto, dicevo, la differenza sta proprio in questo, no? Il fatto che la diatonica, con la diatonica puoi suonare in una sola tonalità. Con la cromatica invece, che è quella poi più grande, che c'è un bottone sull'estremo, giusto? Sì, puoi cambiare tonalità. Quello puoi fare anche delle sonorità particolari. Quello c'era un grande armonicista italiano, e Bruno Filippi. Sì. E poi soprattutto che faceva la sigla finale di una trasmissione alla televisione. Però il più grande è stato Toots Thielemann, belga, che io ho avuto l'onore di ascoltare, di conoscere, in più grande musicista dell'armonica e soprattutto anche ottimo chitarrista. Diciamo che l'armonica comunque non è uno strumento esclusivamente usato nel blues, ma viene usato un po' in tutta l'area, quell'area musicale che va dal nostro cantautorato ad alcuni cantautori fino al folk americano. Ti posso raccontare un particolare, Carlo? Siamo qui apposta. La prima volta che ho ascoltato l'armonica è stato tanti anni fa, ero un ragazzo e c'era un ragazzo di Atri con qualche anno più di me, il suo nome è ancora Bruno Pavone, sarebbe il papà di amici nostri, soprattutto il fratello di BB, il grande calciatore BB, scomparso qualche anno fa. Bruno Pavone era un grande musicista di armonica a bocca. Lui con questa armonica riusciva a suonare delle melodie abruzzesi soprattutto. E un giorno, quando sentì mio figlio Alessio suonare l'armonica, mi incontrò e mi disse: Vince, Alessio, torch. E perché l'armonica a bocca, se non storci un po' la bocca, se non storci la lingua, se non svisi un po'. Sì. E lui, Bruno, mi disse: Alessio è uno che torce. E in effetti Alessio, che sarebbe figlio di Vincenzo, è uno che insomma, con l'armonica, io me lo ricordo infatti, soprattutto con l'armonica, era uno che stava lì, poi si metteva. Sì, lui portava sempre l'armonica in tasca. Poi qualche volta io ho esagerato pregandolo di suonare anche così quando c'era qualche amico, e lui si rifiutava sempre perché quasi si vergognasse. E mi dispiace che effettivamente non l'ha suonato poco, perché lui aveva quel guizzo. Vabbè, lui si è dedicato principalmente alla chitarra, però ogni tanto l'armonica gli piace, lo riprende ancora quella sua particolarità. Bene, Carlo, il nostro regista, Carlo il registra, il patron della radio Cerrano Web, ci propone adesso un altro brano in scaletta, quel Big Walter Horton, Walter's Boogie. Stavo leggendo anche un piccolo articolo di Fabio Treves. Beh, il Puma di Lambrate, che io il più grande armonicista. Dici sempre tu che io ho avuto anche l'occasione di ascoltare più di una volta. Fabio è stato ad Atria a suonare. Un paio di volte, credo. Sì, lui quando provò la gazzosa della Di Febo, gli rimase così, come dire, nell'anima. Che quando la gazzosa di Febo, io lo incontrai tanti anni fa a Lodi, Fabio Treves, quando mi chiese: ma tu di dove sei? Io dissi: io di Atri. Allora sei paesano della gazzosa, della gazzosa di Febo, il Puma di Lambrate, il più grande armonicista che abbiamo in Italia. No, in effetti c'è da dire proprio questo, no? Che vabbè, lui parla un po' tecnicamente di quella che è la l'armonica a bocca e fa notare, no, il fatto che si ottiene una nota soffiando e un'altra nota aspirando. E dice, sembra una cosa semplice, ma non è, non è così, non è così semplice. E, no, poi una cosa interessante è che, nel blues, questo forse non l'abbiamo mai detto, ma nel blues si usa una scala di 10 note e non le solite 7, perché si aggiungono le cosiddette blue note, che sarebbero le note tristi. Sì, è vero? Sto dicendo una fragnaccia? No, no, non stai dicendo una fragnaccia. Vabbè, le famose note blu. Esatto, le famose note blu. Ma l'avevamo detta sta cosa? Ma oh Carlo, anche se ci ripetiamo, l'importante è lanciare sempre il messaggio, capito? No, e poi in effetti la cosa che è interessante è appunto quella matrice popolare di cui stavamo parlando prima, da parte dell'armonica, intanto facile da portare in giro, non come la fisarmonica, che era più grande, naturalmente anche più meno costosa, e quindi proprio adattissima per quella che era la musica di strada. C'è da dire comunque una cosa importante, che in Italia abbiamo dei grossi armonicisti. Uno dei primi, io mi ricordo, sempre parlando di Alessio, che lui ricevette in regalo da un mio cugino il metodo di Paolo Ganz, che è un armonicista straordinario, lui è di Venezia, e fece tanti anni fa un metodo per imparare l'armonica in qualche giorno, in poche settimane. Effettivamente ci servono anni per imparare a suonare l'armonica come Cristo comanda, però i rudimenti si imparano, diciamo, piano piano, però ci serve sempre una linea di conoscenza e soprattutto una linea di ascolto, perché l'armonica è uno strumento che principalmente si ascolta per capire dove andare a cercare le note. Io però mi sono sempre chiesto, ma come c'è arrivata l'armonica, soprattutto negli Stati Uniti? E questa è una domanda che poi sono andato a soddisfare naturalmente su internet. E l'armonica in America ci è arrivata tramite un tedesco, probabilmente. Calcolate che anche attualmente l'armonica più famosa nel mondo è la Hohner, che io mi comprai, mi ricordo, a Monaco tantissimi anni fa, e da lì cominciai un po' a suonicchiare, e c'aveva un suono bellissimo. Anzi, fu un regalo di papà, un suono bellissimo. E in America arrivò tramite, anche perché insomma in America è arrivato tutto dall'Europa tramite quelli che poi si sono spostati, i nuovi americani, i nuovi americani, quelli che i non nativi, diciamo, e tra questi appunto sto tedesco che cominciò a portare questa armonica lì, e poi da lì naturalmente, per le ragioni di cui vi parlavo prima, la diffusione è stata rapida e immediata. Allora, io mi ricordo l'ultimo viaggio che ho fatto in Germania, lo feci con mio padre, soddisfacendo anche un suo desiderio. Mi disse, prima di morire voglio ritornare una volta in Germania. Lui era stato tanti anni, e in quell'occasione mio figlio Alessio mi disse, papà, guarda, se vai lì devi passare in quella fabbrica della Hohner a Trossingen e mi deve riportare delle armoniche a bocca. E io veramente riuscii ad arrivare in tempo ed entrare in questo negozio che era antistante alla fabbrica e comprare delle armoniche proprio originali lì, proprio nella fabbrica dove le facevano. Chiaramente nel corso degli anni si sono avuti tante evoluzioni, sono sorte altre fabbriche, però c'è da dire una cosa, che i grandi musicisti hanno sempre usato la Hohner, che è un marchio di garanzia, insomma. E allora andiamo con il prossimo brano, poi ci abbiamo qualche altra cosa sì, da il dire. Prossimo brano, volevo ricordare una cosa, che forse il musicista più che ha utilizzato l'armonica è stato sicuramente Muddy Waters, perché Muddy Waters ha avuto l'esigenza di di avere un armonicista nella sua band, ne ha avuto dei più grandi. Questa sera tutti quelli che noi abbiamo presentato, dal primo Little Walter, difatti il primo brano era insieme a Muddy Waters, ma poi anche a Sonny Boy Williamson, a quello che presentiamo adesso, che secondo me è stato uno dei personaggi più straordinari che abbia suonato con Muddy Waters, quel James Cotton, Cotton Crops Blues. Tell you the reason why I say so. Well, you know you don't get nothing for your cotton now, and your seed's so doggone low. Man, like raising a good cotton crop, it's just like a lucky man shooting dice. Just like a lucky man shooting dice. Work all the summer to make your cotton. When fall come, your cotton still ain't no price. All right now. And I'm not driving, that's a natural fact. Now gotta be some changes made around here, people. And I'm not driving, that's a natural fact. I'm gonna jump up on one of these poor mules and start riding. And I don't care where we stop at. Si stava parlando un pochettino anche di questo incredibile connubio, di questi incredibili connubi che spesso si sono verificati in America. Ad esempio l'Irlanda, gli irlandesi che portavano con sé il violino e gli italiani che portavano con sé il mandolino, cioè i popoli, la fisarmonica, i popoli che portavano i loro strumenti tradizionali di origine, che poi hanno dato vita a questo mix, a questo veramente incontro che poi è sfociato in qualcosa di nuovo, in qualcosa di diverso. L'armonica ne è un caso, no? Il tedesco che arriva in America e porta con sé l'armonica, e a quel punto l'armonica insieme al banjo. Il banjo è un connubio, no? È il tentativo di copiare la chitarra che arrivava dall'Europa, e questa chitarra poi è stata in qualche modo copiata attraverso il tamburo, quindi questo strumento di pelle e di corde che voleva in qualche modo copiare la chitarra, e poi ha dato vita al banjo. Quindi strumenti che arrivano da un'antica tradizione che è quella europea, che poi arriva in America e diventano strumenti di una musica nuova, o di una musica che trae spunto, come dicevamo, agli albori da quelle che sono le tematiche africane, le sonorità africane, perché i neri d'America portavano con sé quelle che erano anche i suoni e le note dell'Africa, e il tutto poi viene fuso in qualcosa di completamente nuovo. Beh, ti è piaciuto questa cosa? Sì, questo mi è piaciuto, come dire, onore all'Africa, perché l'Africa ha portato il ritmo. Difatti i primi blues erano principalmente fatti con il ritmo e con un flauto fatto con un pezzetto di canna. E da lì che poi è cominciata un po' l'evoluzione, la straordinarietà, poi ci hanno messo un po' la chitarra e poi piano piano diciamo che si è arricchito un po' di tutti gli altri strumenti, soprattutto l'armonica che a Chicago, e se vuoi suonare blues dal blues di Chicago non puoi fare a meno dell'armonica, altrimenti non è blues di Chicago. Salutiamo Adriano, Master Bubi. Sì, Adriano, il nostro amico Adriano che sta lavorando sul suo secondo disco, il primo straordinario, che ha collaborato anche Alessio, è bellissimo e sicuramente Adriano è, oltre ad essere un grande DJ, un grande cultore della musica e soprattutto un grande musicista con delle idee così innovative, lui riesce in un disco a condensare tutte le idee che ha in testa, e questa è la straordinarietà. Che non è una cosa... Sì, quella straordinarietà è questa, che lui veramente lui riesce a essere blues, jazz, bossa nova, popolare, veramente un Adriano è un vulcano. Vabbè, ma questo lo sapevamo da quando era ragazzino. Sì, ma si era capito. Adriano è uno dei nostri, insomma. Si era capito. Come dicevo prima, l'avevano capito subito. Carlo, come dicevo prima. La band più, diciamo, saluta Marcello anche. Marcello si chiama, ci ascolta da dove? Sicuramente da Roseto. Ah, bene. Io credevo dal Brasile, Marcello. Vabbè, Marcello. Sì. Niente, volevo ricordare che... Si sta commuovendo, Adriano. Adriano, te lo dobbiamo soprattutto perché tu sei uno dei precursori, una di quelle persone che veramente, come me, io ti voglio bene perché tu incarni l'idea proprio... Ma lo sai che, Adriano, scusa se ti interrompo. Come faccio spesso. Sì, dimmi. Ma lo sai che Adriano ha fatto ascoltare la nostra radio a Giovanotti? Vedi? Ma questo non lo sapevo. Adriano, abbiamo le prove? Sì. Ma Adriano, quando ritorna ad Atri, sembra una persona, diciamo, comune. Normale. Mentre invece Adriano, nell'ambito della musica italiana, specialmente in quel di Rimini e oltre l'Emilia-Romagna, adesso si è anche un po' evoluto in altre regioni, è stato sempre un punto di riferimento perché lui ha sempre avuto quel pallino della scoperta. Poi non è che lo scopriamo noi, Adriano è straordinariamente, diciamo, un personaggio mitico. Bring back my little girl. Questa ve la devo raccontare. No, questa ve la devo raccontare, perché poi vi racconto anche un altro piccolo episodio legato all'armonica bocca. No, perché Vincenzo, praticamente il nostro regista, credeva, non si sono capite, in pratica Vincenzo per una decina di minuti ha parlato, no, dieci minuti no, per un paio di minuti ha parlato a microfono spento, io lo vedevo e non sentivo niente. Prima ho detto, ma magari sarà la mia cuffia, invece no, poi gli ho detto, ma Vince, stai parlando al microfono spento. No, ma soprattutto perché Carlo mi aveva detto, vuoi parlare sul brano? Io ho detto sì, volevo presentare il brano che abbiamo ascoltato, quell'Eddie Lester che è stato per lunghi anni l'armonicista di Muddy Waters, e qui nel brano precedente interpretava un brano proprio di Muddy Waters. Però volevo dire una cosa, sì. Siccome questa sera ci stiamo fregiando della presenza, dell'ascolto di Adriano, sì. Volevo dire ad Adriano, la prossima volta che viene ad Atri, Adriano, devi venire qui a Radio Cerrano Web e presentare il tuo disco, perché, come dire, così ci parlerai della produzione, ci parlerai delle tue composizioni e soprattutto ci parlerai di questa gestazione che è stato, diciamo, per te molto sofferta, ma soprattutto raggiunto con un grosso risultato, perché il disco è veramente bello. Mi raccomando, Adriano, dici di sì in diretta, perché ci teniamo affinché tu possa venire qui. Dici di sì su Facebook affinché tu possa venire qui a Radio Cerrano Web. Aspettiamo. Allora, io no, invece volevo raccontare un piccolo aneddoto che riguarda l'armonica a bocca. Noi abbiamo detto che l'armonica a bocca viene... Carlo, dire l'armonica a bocca un armonicista è veramente una cosa che lo offendi a morte. Vabbè, è l'armonica. È l'armonica. Appunto. Come quando dici la chitarra a mano, la fisarmonica a mano, cioè l'armonica è uno strumento che si suona ragione. Con la bocca, come la tromba, il sax, sì. Il corno, ragione. Il flicorno. Hai ragione. La famosa armonica senza bocca. Bravo Carlo. Ci sono degli episodi particolari, tra cui uno che riguarda il film dei Blues Brothers, perché l'armonica abbiamo detto che viene denominata harp. Harp. Blues harp. Blues harp, che così in maniera, diciamo, un po' facilona uno potrebbe tradurre in arpa blues, ma non è così, perché si capisce che invece è uno strumento, un tutt'altro strumento che l'arpa. E c'è un episodio che alcuni intenditori hanno sottolineato, nel più che un episodio, una gaffa all'interno del film dei Blues Brothers, nella scena in cui i due fratelli incontrano il vecchio Curtis Cobb Calloway, lui dice, loro ricordano, per noi cantavi le canzoni di Elmore James e suonavi l'arpa in cantina. Naturalmente chi ha fatto la traduzione, ma chi ha fatto soprattutto, come dire, la versione italiana, sicuramente ha doppiato ma i doppiatori leggono quello che scrivono i traduttori. Naturalmente qualcuno ha tradotto arpa invece di armonica, e insomma ce ne vuole, perché vedere il vecchio Galloway che suonava l'arpa sotto la cantina, insomma, mi sembra. Sì, ma questo, Carlo, questo è purtroppo è una di quelle situazioni, diciamo, dove la cultura a volte si va a friggere, no? Ma se ne sono accorti in pochi, comunque. Ah sì, anche perché questa è la dimostrazione che la cultura si va a friggere. Adesso? Bene, adesso presentiamo uno dei... Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Radio Cerrano Web, se mi dici quali sono le altre piattaforme sulle quali possiamo ascoltare... L'altra sera t'ho citato un po' di volte, no? Sì. Con bene, bene, bene. Bene, bene, bene. O così, sì. così. Ma difatti me lo dicono pure in tanti. Ogni volta che fai un discorso dici sempre bene. Meglio così, se potessi dire male sarebbe diverso. È vero, è vero. No, le piattaforme, dai, tu mi prendi in giro sempre. No, mi piace ascoltarle. Dobbiamo sempre dire, questo è vero, che questa radio è la radio del parco. In che senso? È il senso del Parco Marino Torre del Cerrano. Siamo con loro collegati strettamente. Presto avremo anche un'altra collaborazione importante, un po' più grande, però non voglio non mi voglio allargare, perché altrimenti, insomma, ultimamente io poi faccio annuncio, aspettiamo la formazione del nuovo governo per dire questa cosa. No, annuncio le cose, poi magari, ma anche nella vita privata, no, sembra che lì a portata di mano degli obiettivi, invece invece, quindi vedremo. E quindi dicevo, è la radio del Parco Marino, questa cosa per noi è fonte di orgoglio. E poi è anche vero che questa nostra radio è un po', sta diventando piano piano la voce di un territorio, e il territorio è quello abruzzese teramano, che appunto abbraccia gran parte dei comuni che fanno parte appunto del Parco Marino, e anche di quelli da parte qui sulla collina dove siamo noi. Però anche se i nostri ascolti ormai hanno travalicato oceani e continenti, nel senso che ci ascoltano un po' dappertutto, abbiamo ascolti dalla Giordania, dalla Siria, dalla Siria perfino, questo in quella zona martoriata. Questo si denota anche dal tuo contatto Instagram, perché diciamo tu hai la possibilità anche di, mi dicevi poco fa, 5 minuti dall'inizio della trasmissione, già avevi 30-35 ascoltatori su Instagram. Avevamo sulla mia pagina una diretta. Dunque vuol dire che il programma è ascoltato. Sì, ma li vediamo, tutto questo lo spieghiamo anche agli ascoltatori, tutto questo noi lo vediamo anche attraverso dei programmini di Insights, si chiama così, nel senso che ti fanno vedere quanti ascoltatori hai, dove sono collocati e a che ora si sono collegati anche. Mi diceva Carlo, ad esempio, che la notte facciamo degli ascolti importantissimi quando ritornano i nostri programmi in podcast. Perché naturalmente ci ascoltano tanti dall'altra parte del mondo dove è giorno. Vogliamo far ascoltare un pezzo di questo brano che io ho programmato? Vai. Siccome il nostro regista, chiaramente, non appena noi cominciamo a parlare, mette subito la musica. Questo è il grande Sonny Terry, che ha fatto un sodalizio straordinario con Brian McGee, un altro grande della musica blues, un chitarrista. Loro erano un sodalizio straordinario, e questo signore è Sonny Terry, Hooting the Blues. Crossroad, il mitico crocicchio dove quella notte Robert Johnson regalò l'anima al diavolo per avere la possibilità di essere il chitarrista più forte del mondo. ci riuscì. Fatto sta che Robert Johnson ha scritto quelle 29 canzoni, e quelle 29 canzoni sono la Bibbia del blues. Come sei didascalico questa sera? Eh no, qualche volta sai che mi succede, Carlo? Ma non ti mette fame? Ah, ecco, volevo dire, volevo fare una pubblicità, come sì, dire, facciamola a Giulia, a Giulia, alla nostra, diciamo, ci ha promesso che ci... fornitrice di grappa del poeta. E... il poeta sarebbe il padre di Giulia. Sì, vini del poeta, la grappa, una grappa veramente molto molto molto dolce e soprattutto naturale, e soprattutto che a Carlo scorre lungo la gola in un modo straordinario. È vero, sì. Carlo? No, la grappa è buona, la grappa del poeta sinceramente sì, mi piace, perché non è così secca, è un po' amabile. No, quindi... ho parlato con Giulia l'altro ieri, mi ha detto guarda, quando avete, come dire, voglia di... Poi ti dedichiamo il brano di Paolo Sdog, Giulio. Sì, sì, sì. Quando avete voglia di passare in negozio, chiaramente il rifornimento è assicurato. Quanti milioni hai fatto con le cassette di Paolo Sdog? Mi ricordo, guarda Carlo, ti posso dire una cosa. Ci fu un periodo ecco, questa è una, scusami, questa è una cosa che la prossima settimana dedicherò un programma ai Paolo Sdog. Sì. A David Surkamp, quella sì, voce straordinaria. Che non è morto. Sì, non è morto. Perché lo davo per morto. Allora, i Pavlov's Dog, un gruppo che ha avuto un grossissimo successo, specialmente ad Atri, perché gli appassionati come Emidio, Balducci, Gino Martella, che sono stati i precursori di questo, di questa band, e loro sono stati quelli a farli conoscere. Quando ho preso il negozio io, ancora c'era qualche vinile in giro. Poi, a un certo momento, c'è stato il trapasso tra il vinile e il CD. E praticamente che cosa è successo? Che questi dischi dei Pavlov's Dog non si trovavano più. Fatto sta che un giorno andai a Milano con un amico a comprare... Lui andava per il suo lavoro, io mi aggregavo, andavo a comprare i dischi. Ed era arrivato lì per lì, proprio da qualche giorno, tutte le ristampe di una casa discografica tedesca, mi ricordo la Line Records, e vidi lì uno scaffale pieno di Pavlov's Dog. Beh, ti dico una cosa, Carlo, riempì un cartone solo di Pavlov's Dog, del primo e del secondo disco. Allora, e lui che poi mi disse, sono quelli, insomma. Sì, i due, diciamo, principali. E questo ragazzo che stava lì mi disse, ma scusa una cosa, ma tu sei convinto di vendere questi dischi? E gli dissi che allora che li compra a fare, gli dissi io. Beh, ritornai ad Atri e dopo una settimana i dischi erano spariti, i CD erano spariti tutti, perché quelli che avevano dischi, il disco l'avevano consumato e non vedevano l'ora di riascoltare in digitale questa grande band. Bene, abbiamo fatto una piccola parentesi. Una deviazione. Una deviazione bella però, perché comunque i Pavlov's Dog meritano poi ne parleremo più approfonditamente. Anzi, c'era quel famoso brano Giulia, Giulia. Torna pure tu quando facciamo sta cosa. Sì, sì. Va bene. Sì. La prossima, invece, giovedì prossimo vi anticipo che farò una serata dedicata a Bruce Springsteen. Ehi, ehi. Ecco. No, però io la storia della grappa che facciamo rivedere. Facciamolo rivedere, dai. No, perché c'è dalla Polonia qualcuno che mi dice che sto bevendo troppo. Ma questa è sta grappa, edita questa grappa. È così da una settimana, eh? E lei non mi capisce, però insomma, è così da una settimana. No, sai perché ho citato la grappa? Perché comunque ho scoperto che naturalmente le armoniche, a un certo punto, le più buone, quelle più, insomma, sono fatte con la cassa in legno. Sì. Giusto? Sì. A un certo punto si scoprì naturalmente che, essendo il legno un materiale vivo che si muove, che si... Dopo ti voglio raccontare le fibre. Ti voglio raccontare una cosa proprio su questa... Le fibre... Su questa vicenda. Le fibre del legno sono vive e il suono è più caldo. Cambia il suono, naturalmente, qualcuno disse, se si bagnava o meno la cassa in legno. E qualcuno... Difatti ci fu quel grande cantautore Neil Young che non riusciva a spiegarsi perché i neri avevano un suono diverso. Poi scoprì che i neri, prima di suonare l'armonica, sì, lo imbevevano. Sì. La bagnavano. Un'acqua che doveva avere una sorta di temperatura, di una certa temperatura, ma poi si scoprì invece che anche la imbevevano nel whisky. Sì, sì. Di una certa... Diciamo che la facevano ubriacare un po', come faceva Junior Wells. Però questa secondo me è una leggenda metropolitana. No, no. Junior Wells, Missing Red Kid, armonicista di Buddy Guy. A gift. I work for my money on an 8-hour shift. But oh yeah, oh look at what you did. You can call it what you wanna, but I call it nothing but the kid. Allora, Vincenzo non c'è, è andato via, abbiamo litigato. No, stiamo parlando, questa è Radio Cerrano Web, e naturalmente questa sera stiamo parlando sempre di blues, ma centrando l'obiettivo su quella che è un po' quello che è lo strumento principe, lo strumento regina di questo movimento musicale, che appunto è l'armonica. Sono stato ripreso giustamente, l'armonica a bocca sarebbe come dire la chitarra a mano. E l'armonica e le sue diverse sfaccettature, nel senso che, e questo è vero, che noi abbiamo parlato di armonica diatonica e di armonica invece cromatica, che sono i due tipi di armonica principali. Però comunque sì, se quella diatonica è forse quella più usata nel campo del blues, del folk, anche la cromatica è stata utilizzata più volte, e poi naturalmente molto dipende da quella che è la sensibilità del musicista. Moltissimi bluesmen si sono rapportati con tutti e due i tipi di strumenti, perché insomma era un po' il feeling che ogni strumentista, ogni musicista poi sviluppa con il proprio strumento. E, Vincenzo, io mentre tu eri via ho tentato un po' di fare le tue veci e quindi di spiegare un pochettino anche il feeling che si che si crea, no, tra il musicista e lo strumento. E comunque stavo in qualche modo sottolineando il fatto che sì, la diatonica è la più usata, però è anche vero che ci sono altri bluesmen che non disdegnano di usare la cromatica. Beh sì, quando i brani sono un po' più complessi, un po' più imperniati verso il soul, dove hai bisogno di note, diciamo, che creano quell'atmosfera, sì, però il blues principalmente è la blues harp che viene usata, insomma, non, da qui non si scappa. Chiaramente la diatonica ha più note a disposizione, soprattutto è una sonorità un po' diversa, perché ti permette anche di... Fai gli scherzi, il regista. Senti come ti ha messo un riverbero. Sì, sì, sì. Sembra che siamo in cattedrale. Fratelli! No, rimettimelo sta cosa. Carlo. Fratelli! Ascoltate! Dai. Rimetti. Ascoltate Radio Cerano Web! Oh yeah! E niente, Carlo. Ho incazzo in cesso che lo interrompiamo. No, vabbè, Carlo. Diciamo che principalmente c'è tutto. Perché se noi dovessimo venire qui ingessati, legati a uno stereotipo, andremo in no, per l'amor di Dio, mi sto a casa. Guarda, ti posso dire una cosa. Mi sto a casa a vedere Ballando con le Stelle. Ma. No, per l'amor di Dio. No. Ballando con le Stelle, mai. Magari Ballando con i Lupi. Ballando con i Lupi, sì. E quello l'ho visto tante volte. Però, ecco, voglio dire, magari mi metto davanti al PC, mi ascolto un po' di musica, e male che va, insomma, mi vedo qualche film in TV. Marco, buonasera a tutti. Grazie, Marco. Sei arrivato un po' tardi, però, ma Marco, sera. Mi pare che gli è successo qualcosa sulle vie della neve. Mi pare che ho letto qualcosa ultimamente su Facebook. Sì? Sì. Oh, io sono stato giovedì a sciare, si stava divinamente, anzi credo se il tempo non cambia tornerò venerdì. Vuoi venire, sì, Vincenzo? No, io guardo la neve, ve la lascio tutta, soprattutto perché io sono un appassionato del mare, e anche se questi ultimi anni sono andato pochissimo, però conto di ritornarci nella prossima stagione, perché, come dire, a una certa età le ossa hanno bisogno di sole, e poi, diciamo, il mare fa bene. E poi noi siamo privilegiati, perché poi andremo lì nella Torre di Cerrano con la nostra radio Cerrano Web, e avremo anche l'occasione di sentiremo le onde. Sì. Bene, adesso parliamo di George Harmonica Smith, in un brano che lui ha suonato attraverso un telefono, e di fatto questo brano si chiama Telephone Blues, dove racconta il suo... Eccolo qua Marco, che è arrivato con una bottiglia particolare, con un altro drink. Spice. Un altro drink. Bene, George Harmonica Smith, The Telephone Blues. Treated me, Daddy. Pronto prova, sì. Allora, è arrivato un altro prodotto. Questo è un prodotto autoctono, locale. Fatto in casa. No, aspetta, adesso devo fare una traduzione in inglese perché qua mi stanno provocando. Sorry, the Poland there is in the Howard list. Don't worry, and 11-12 people. Ok, possiamo andare avanti. No, perché dicevano no, non c'è la Polonia non c'è, perché ho fatto vedere i nostri insights, sì. E dicevano ma la Polonia non c'è, intanto c'è perché you are here and so there is one from Poland and after we have 11-12. Oh Carlo, che ti debba dire? No, facciamo i complimenti a Marco perché... Sì, per questa agenzianella fatta in casa. Oltre alle cucine, Marco, pure l'agenzia. Sì, sì, lui è un grande disegnatore. Immagina che Marco mi ha dato lo spunto per... No, adesso se mi tiri fuori pure l'aneddoto su Marco. Marco mi ha dato lo spunto per fare uno scaffale a muro nella mia casa. Bravo. Me l'ha dato lui, perché... Carlo, ti posso dire una cosa? Io sono amico di tutti e amico veramente degli amici, e quando mi rivolgo ad un amico per farmi così un favore, per darmi una dritta, nessuno si tira mai indietro. Marco è stato tra questi. Gli ho prospettato la cosa anni fa, il problema, e lui, come sua usanza, con quattro schizzi ha realizzato subito la... Quattro chiodi, ben messi. Sì, ha realizzato subito la situazione. Poi mi sono affidato a un grande artista, del calcestruzzo. Gabriela ci dice bella serata, vedi? Bella serata, sì. È vero, ci stiamo divertendo. Ma Carlo, questo deve essere lo spirito, altrimenti t'ho detto mi sto a casa. Questo è proprio lo spirito blues, stasera proprio. Io ho sempre blues. Detto che quando faccio una cosa, se non mi diverto, è inutile che lo faccio, capito? Tutte le cose che ho fatto nella mia vita l'ho fatto divertendomi, anche il lavoro, soprattutto il lavoro. Io quando... No, non è vero, sto dicendo bugie. No. Sì, perché io quando perché io quando andavo, quando entravo nel tuo negozio, mi ricordo, io ero ragazzino, però insomma già mi affascinava il mondo dei dischi, della musica, e poi anche la tua figura così carismatica. Stavi sempre incazzato. Ma io lo sono tuttora, Carlo. Lo sono tuttora. Con tutti. Ma questo... Eri incazzato soprattutto, mi ricordo, col ministro del tesoro. Sì, ma non solo con quello, ma anche quello delle finanze, anche sì, con quello delle finanze, diciamo, ma con quello delle finanze di più. Sì, sì, sì, sì. Ma Carlo, una di queste sere ti racconterò quello che mi è successo in questi giorni con il nostro istituto pensionistico statale, nazionale, statale, con l'INPS. Ed è veramente, come dire, qualcosa di squalificante per i cittadini. Trovarsi di fronte a dei problemi che dovrebbero risolvere chi sta lì nella scrivania. Ti dicono addirittura sì, ma questo è straordinario, perché il lavorio questo è contro il logorio della vita moderna, vedi, tu ti beve la geziana, lei si beve il cinario. E niente, no, adesso aspetta, voglio voglio raccontarvi la storia di Carey Bells. Ah, ecco, no. Allora, Carey Bells è un grande armonicista, anche lui è stato per diversi anni con Muddy Waters. E il figlio di Carey Bells, Lurie Bells, è venuto ad Atri a suonare al Greensing Blues alla seconda edizione. E il manager, che era un profondo conoscitore delle storie di Carey, perché Carey era un tipo particolare, poi in quel periodo gli era successo proprio questo fatto qui. Praticamente lui, Lurie Bell, rientrando a casa, trova la moglie e il padre, che sarebbe Carey, a letto. In che senso? trovano niente, stavano facendo l'amore sul letto. Quindi praticamente il padre... lui praticamente ha detto: guarda, tutto avrei immaginato, ma che tu lo facessi con mio padre non avrei mai pensato. Anche questa è una storia di blues, perché poi Lurie Bell, dopo questo fatto, lasciò la moglie, si rituffò di nuovo nel mondo del blues, e oggi è uno dei più grandi esponenti del Chicago Blues. Il padre era un fenomeno. Ma il padre era un fenomeno, soprattutto, in tutti i sensi. Soprattutto perché circuiva la nuora, e si vede che la nuora aveva il debole per il suocero, come si dice, nuora e suocero dei paesi tuoi. Cosa che mi fa sorridere è che alcuni ascoltatori si sono resi conto che insomma stasera siamo un po' allegri, infatti ci dicono: stasera siete un po' diversi. È vero, Vincenzo? Veramente scrive: siate un po' diversi. No, Siati. Siati. Ma, ecco. ma lei è straniera, quindi non bene, scrive bene. Anzi, volevo ricordare che questa sera stiamo facendo un programma sull'armonica blues, principalmente armonicisti neri, perché la prossima settimana andremo nell'universo degli armonicisti bianchi. È un'altra cosa, naturalmente. No, sempre la stessa tecnica. No, chiaramente l'impatto è diverso, il sanguigno è diverso. Volevo aggiungere una postilla pure io, no, a questo discorso sull'armonica, ma forse ti precedo, non lo so. Però logicamente dobbiamo dire che una svolta particolare gliel'ha data anche l'elettrificazione, no, all'armonica. Sì, sì, difatti Little Walter fu uno dei primi ad usare l'armonica con attaccata a un amplificatorino. E effettivamente, perché prima si usava suonare direttamente sull'impianto, ma non aveva quel suono particolare che poi assunse veramente con un amplificatore, e di lì effettivamente poi parecchie ditte che costruivano amplificatori fecero degli specifici amplificatori direttamente per l'uso degli armonicisti. E il Green Bullet si chiama, sì. Che la fa la Shure. Sì, ma poi quella proprio specifica per, diciamo, le che l'amplificatore più usato dagli armonicisti è stato il famoso Bassman della Fender. Difatti, quando venne Musselwhite qui ad Atri, io misi sul palco un amplificatore quasi uguale al Bassman, solamente che è un Blues Deville con la stessa concezione, diciamo, di costruzione, a quattro coni della Jensen, e un blues un blues reverber della Fender, e un twin reverber della Fender. E il chitarrista disse: no, suono io. No, disse Musselwhite, disse: guarda, con quello ci suono io, perché quello è il mio amplificatore preferito. Dunque gli armonicisti poi nel corso degli anni, l'evoluzione l'hanno un po' seguita, e soprattutto molti armonicisti sono andati direttamente nelle ditte costruttrici per creare, diciamo, quel particolare amplificatore che diciamo loro si adatta esclusivamente, sì, all'armonica. Ti anche faccio una domanda a bruciapelo, sì, però, ma secondo te Walter Shaky Harton è il più grande armonicista di sempre? Ma no. Il più grande, sei d'accordo? No, il più grande armonicista di sempre è sempre Little Walter. Little Walter è stato, diciamo, il primo armonicista che veramente ha dato una grande dignità all'armonica, perché poi lui soprattutto era, oltre ad essere un ottimo cantante, ma era un personaggio straordinario, era un litigioso per natura. Lui addirittura nel film della Chess Record arriva lì vicino alla casa discografica, al locale dove si incidevano i famosi dischi della Chess Record, arriva con una sfiammante Cadillac mancante degli sportelli. Allora lo fermano due poliziotti, dice: ma lo sai che non puoi viaggiare senza sportelli? E lui, Little Walter, dice: che lo dice? Lo diciamo noi, perché voi chi siete? Questo ti dà un po', eh? Ti dà l'idea. Ti dà un po' l'idea. E lì veramente poi abusarono di lui, addirittura gli dettero veramente tante di quelle botte che Little Walter dovette stare per parecchi mesi lontano dalle scene. I'm never gonna get stiamo parlando, buonasera a tutti ancora, stiamo parlando qui a Radio Cerrano Web dell'armonica, il ruolo dell'armonica all'interno del blues. Però ecco, si stava parlando prima della elettrificazione dello strumento, che può sembrare una banalità, ma in effetti non lo è. Perché? Perché con l'elettrificazione l'armonica non diventa più, non è più uno strumento, come dire, di contorno, che spesso viene utilizzato anche per copiare determinati suoni della giornata, oppure il treno, la voce umana, determinate cose. Ma a quel punto l'armonica diventa un vero e proprio strumento in un contesto ben preciso, quindi con i propri assoli e le proprie caratteristiche. Naturalmente questo che cosa fa? Prende l'armonica e la mette all'interno anche di nuovi contesti, come quelli del rock e della musica popolare. Vince, giusto? Mi stai guardando un po' perplesso. No, ti sto guardando perché voglio ti capire. Ti ho stupito. No, sì, soprattutto l'armonica diventa uno strumento necessario per creare certe sonorità. Diciamo che in Italia, oltre, vabbè, nel blues è usatissimo, ma anche la musica, diciamo così, la musica popolare per dire, la musica pop, la musica leggera, abbiamo Bennato per esempio, che ha fatto un utilizzo straordinario dell'armonica nei suoi dischi, e poi lui era anche un ottimo armonicista. Ma l'armonica, per ritornare un po' al blues di Chicago, come diceva Muddy Waters, l'armonica doveva essere uno strumento di armonizzazione del brano. Difatti nei dischi di Muddy Waters l'armonica era sempre presente, magari si sentiva in sottofondo, però per certi versi accompagnava il canto, armonizzandolo addirittura. Ecco perché Muddy Waters ha usato moltissimo l'armonica, e soprattutto i più grandi armonicisti del periodo. Diciamo poi che l'armonica è uno strumento che predilige tantissimo l'improvvisazione, cioè è difficile che un armonicista abbia uno spartito su cui poi che segue in modo pedissequo, assolutamente. A tal proposito ho trovato un aneddoto di Fabio Treves che viene chiamato Fabio Treves, naturalmente forse uno dei più grandi armonicisti italiani. Ma sì, Fabio è grande. Fabio è, diciamo, no, diciamo è il blues, precursore, sì, Fabio blues, sì. È l'icona, da lì si può tranquillamente partire per poi diramarsi in tante vie, però Fabio Treves sicuramente è il personaggio che rappresenta di più l'armonica in Italia. E diciamo che Fabio Treves non conosce la musica. E questo infatti fu chiamato dai Pooh per fare un pezzo, per entrare in un pezzo, e gli misero di fronte lo spartito, e allora lui, vergognandosi un po', disse: vabbè, ma diciamo pure che io entro, faccio un po' a modo mio, lasciamo perdere lo spartito. Poi lì si accorse che in effetti non leggeva bene lo spartito, ma improvvisava, andò benissimo, e stracciarono lo spartito. Ma la colpa non fu di Fabio Treves, ma fu dei Pooh, perché i Pooh non potevano pretendere di mettere un'armonica nella loro musica e pretendere che l'armonicista diciamo andasse fuori dalla sua creatività. Cioè, tu mi fai sentire il brano, io capisco lo spirito, in questo poi i grandi musicisti, Carlo, Zucchero, quando chiese a Eric Clapton di suonare in un brano, Eric Clapton gli disse: guarda, mandami il brano, io ti mando 4-5 assoli, dopodiché tu ti scegli il migliore. La stessa cosa fece in un brano di Pino Daniele, gli disse: Pino, mandami il brano, io ti mando l'assolo. Ma non è che Pino Daniele o Zucchero gli hanno mandato la stesura della musica, gli hanno mandato il brano e dopo hanno lasciato libera interpretazione al talento. Va bene, questo io sono d'accordo con te su questa cosa, ma gli aneddoti poi ce ne sono tanti altri. Ne ho trovato un altro che riguarda appunto il Sonny Terry. Tu lo sapevi della storia che ha imparato l'armonicista cieco? tu lo sapevi, oh grande, tu lo sapevi che hai imparato a suonare l'armonica tenendola sotto sopra? Cioè praticamente lui imparò a suonare l'armonica essendo cieco, tenendola sotto sopra, quindi con le note acute a sinistra e quelle gravi invece a destra. E quando qualcuno gli disse stupidamente il motivo, lui rispondeva: perché altrimenti a un certo punto a sinistra non avrei più note. Rispondeva in questo modo. Ma sì, ma poi guarda, i grandi si sono scelti il loro modo di suonare. Io tante volte mi hanno chiesto: ma secondo te il plettro, secondo te le corde, secondo te quello, quell'altro, come... ognuno ha un suo modo di interporsi con uno strumento. Poi stiamo parlando di uno strumento che è l'armonica, che non è che ti mette a disposizione come la chitarra, come il pianoforte, come gli altri strumenti, una quantità di note a disposizione. Se tu vai a suonare blues e il brano è in Mi, tu devi avere un'armonica in Mi, perché altrimenti non puoi suonarla con un'armonica in Do. Ed ecco la differenza. Un armonicista deve avere nel suo bagaglio, diciamo, di armoniche, deve avere tutte le tonalità a disposizione, perché essendo diatonica tu puoi suonare solamente, come dire, in due tonalità, però la tonalità principale è quella che, diciamo, risulta l'importante, e poi quell'altra secondaria è quella che ti dà la possibilità poi di fare delle piccole variazioni. Save your doggone soul. giusto. Allora, questo era Billy Branch. E prima di Billy Branch abbiamo ascoltato Sugar Blue. Sugar Blue è un carissimo amico, lui ha sposato un'italiana, Ilaria Lantieri, una grande bassista di blues venuta qualche volta anche qui ad Atrie a suonare, e loro sono come dire, i diretti discendenti dei grandi del blues, anche se sono in un'età abbastanza, diciamo, adulta, però sono, come dire, quelli che hanno appreso dai vari Junior Wells, Little Walter, Big Walter Horton. No, io ho trovato una frase che mi è piaciuta molto, no? Per quanto riguarda appunto l'utilizzo dell'armonica, ma che un po' sintetizza tutto il mondo del blues, secondo me, perché si parla in un articolo di tecniche da utilizzare, e poi alla fine l'articolista dice solo l'ascolto può aiutare l'indole personale, no? Non solo attraverso le orecchie, ma anche e soprattutto attraverso il cuore. Quella cosa la devi sentire se vuoi che funzioni, perché non è arte, non è musica, è blues. Sì, sul blues possiamo fare tutti i discorsi, i tecnicismi più straordinari, però il blues è qualcosa che tu hai dentro, se non ce l'hai non lo puoi suonare. Dunque, quando io dico tutti abbiamo un blues da piangere, tutti abbiamo un blues da suonare, e questo ti viene fuori dall'anima. Se l'anima è blues, trovi poca difficoltà. E niente, il nostro regista ci mette subito il brano, diciamo, che è una palestra per tutti gli armonicisti di blues, per tutti quelli che vogliono imparare. Uno dei primi brani che si impara con l'armonica è il famoso Juke di Little Walter. Allora, le cronache dicono che l'armonica fu inventata dal tedesco Christian Friedrich Ludwig Bashman. Nel 1821. Ti risulta, Vince? Sì, sì. Ed è uno strumento a fiato, naturalmente. Ricordati una cosa, Carlo. Io te lo dico per esperienza. Dall'Europa sono andati in America tutti i più grandi inventori di strumenti musicali. George Martin, Gretsch, Epiphone. Sono tutti marchi americani, però provenienti dalla vecchia Europa, perché erano tutti liutai. Dunque, come tutti nelle chitarre, ma soprattutto anche negli strumenti musicali, tutti arrivavano dalla vecchia Europa. Diciamo che le motivazioni erano un po' diverse, nel senso che c'era qualcuno che andava via, che scappava, diciamo, qualcuno sì. Che andava in cerca di un nuovo mercato. Soprattutto qualcuno... perché l'America era così grande, sì. Ed era un mercato straordinario. E quindi qualcuno anche che seguiva appunto il flusso migratorio, che soprattutto dall'Irlanda. Io c'ho una... L'Irlanda è stata, credo, insieme all'Italia, una delle nazioni in cui la migrazione verso l'America è stata terribile. Io ho due episodi incredibili. Uno, che facendo un corso sull'immigrazione e emigrazione a delle scuole, scoprì che il trombettiere del generale Custer era di Napoli. E quindi sì. Sta cosa, voglio dire, già ci deve far pensare un po'. E poi mi ricordo che la prima volta che sono stato in Irlanda, gli irlandesi fuggirono dall'Irlanda per la grossa carestia, e mi ricordo che la prima volta che sono andato in Irlanda, in qualsiasi locale io andassi, ristorante, la prima cosa che ti portavano, anche senza chiedere nulla, erano queste patate. Ti sedevi e dicevi: ma chi le ha ordinate queste patate? E le patate te le portano così, come da noi il coperto. E un giorno, incuriosito, chiesi a un ristoratore, dissi: ma scusate, ma ste patate, perché portate subito ste patate? Perché, disse, è una forma di rispetto nei confronti di questo alimento che ha salvato il popolo irlandese, perché il popolo irlandese per anni, durante la grossa carestia, si è cibata solo di patate, e allora noi, per ricordare questo momento, portiamo in tavola sempre e comunque le patate. Comunque, a proposito di Irlanda, io ho visto qualche anno fa un bellissimo film girato in America, dove tanti musicisti americani, oramai trapiantati, ma anche nati anche in America, di origine irlandese, si ritrovano tutti in una grande casa di legno e in un grandissimo salone intorno a un tavolo, e questo film si chiama Portando tutto a casa, e questi musicisti, non vi dico i nomi perché molti non li ricordo, però diciamo sono tutti musicisti famosissimi in America, e ognuno diciamo si cimenta in una canzone tradizionale irlandese. E vedi negli occhi di questa gente, seppur americana oramai da anni, nati anche lì, vedi che nei loro occhi ci sono le radici di quel popolo irlandese. Ah, su questo, guarda, su questo, Vincente, te lo posso assicurare. Quel film, scusa Carlo, io quel film lo voglio rivedere fra qualche giorno, perché mi dà l'esatta dimensione di che cosa vuol dire appartenere a un popolo. E io dico sinceramente, se noi italiani avessimo la stessa dedizione, lo stesso amore per questo bellissimo paese che è l'Italia, probabilmente noi avremmo pochi problemi. Guarda, io la prima cosa che ho notato nel momento in cui ho messo piede in Irlanda è stato, ho capito, lì, ma chiunque lo può fare, nel momento in cui arrivi in Irlanda capisci intanto da dove arriva tutta una serie di musiche che noi ascoltiamo nei film e che la spacciano per americana, no? Quella del West, sì. Eccetera, eccetera, e quella è tutta irlandese. E poi ti accorgi soprattutto delle radici lontanissime di questo popolo che usa il gaelico, tra parentesi, come lingua, quindi una lingua alternativa all'inglese, e io un paio di volte mi sono trovato in dei pub incredibili con dei musicisti tradizionali, quindi che fanno questa musica gaelica, che poi una sera in particolare mi ricordo con questi tamburi, perché loro usano tanto il tamburo e lo suonano in maniera particolare con le dita, mettendo una specie di una cosa battente su due dita, insomma, e loro cantano ma allo stesso tempo raccontano e lì ti accorgi veramente di questa lontananza. Io le stesse sensazioni le ho ascoltando magari musica sarda, ecco, e ti accorgi che è una musica e sono delle sonorità che arrivano da tantissimo, da lontano, da lontanissimo. E poi ti accorgi anche che hanno il culto, come dicevi tu, della tradizione, della danza, ad esempio. Lì ci sono i famosissimi River Dance, che sono veramente un'istituzione. Io li scoprii per la prima volta lì, stiamo parlando di diversi anni fa. Li scoprii sul battello che ci portava dal continente, non dal continente, dall'Irlanda alle isole Aran. C'era un gruppo di ragazze che sul battello iniziò a ballare, a danzare questa River Dance, che è quella danza particolare, no? Che muovono i piedi velocemente, sì, insomma, sì, una sì, cosa incredibile. E in effetti da lì poi arrivano un po' tutte queste musiche che, come abbiamo detto prima, poi si sono mischiate. Sono le musiche delle radici, cosa che noi effettivamente in Italia cavalchiamo poco, perché a noi piace sempre l'esterofilia, piace sempre qualcosa di diverso. Mi raccontava mio figlio, che è stato l'anno scorso è stato in Grecia, che ogni sera, quando in qualsiasi locale vai tu a mangiare, a passare una serata, trovi della musica tradizionale. La cosa bella è che è fatta da giovani, giovani che sono orgogliosi, e questo è un dato di fatto, perché identificarsi soprattutto nella musica popolare significa dare un rispetto alle nostre tradizioni, cosa che noi facciamo poco. Io sinceramente, ultimamente, negli ultimi 10-15 anni qualcosa si sta muovendo, anche gruppi di ricerca, appunto, che fanno ricerca sul territorio, che cercano un po' di anche nella zona nostra, no? Ci sono quelli del Passagallo. Carlo, tu hai visto mai uno di questi gruppi andare in un locale o essere stabile in un locale? Questo hai ragione. Ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire, vabbè, è turismo, sarà anche, come dire, sfruttamento dell'identità popolare. No, ma hai ragione. Però, capito? La Grecia è vero, quella è un'altra cosa che ho toccato con mano. In qualsiasi locale tu vai, alla fine c'è il gruppo che suona e poi c'è la danza, tutti ballano intorno. C'è proprio il ti alzi e si balla sto sirtaki. Sì, perché vieni preso da quello che è l'atmosfera, cioè ti liberi ed effettivamente riesci a entrare in questa condizione, in questa situazione di partecipazione. Sì, ma infatti è un modo bellissimo per socializzare. Per socializzare, ma in fondo è lo scopo della danza, è quello, insomma, quello di far incontrare, di far stare insieme la gente, così come la musica in generale. Ci stiamo dilungando un po' troppo? No, non ci stiamo dilungando troppo, anche perché siamo quasi all'ultimo brano, anzi siamo all'ultimo brano, ed è una jam session capitanata dalla grande Big Mama Thornton, che qui vede dei grandi armonicisti, Big Walter Horton, John Lee Hooker e altri, che la si cimentano in un a jam session finale, come per dire un tripudio a questa serata, un tripudio a questa prima rappresentazione dell'armonica nel blues. La prossima settimana, martedì prossimo, presenteremo l'armonica in bianco. Questa sera l'abbiamo presentata in nero, presenteremo l'armonica in bianco, e soprattutto la prossima settimana ci saranno dei musicisti che sono venuti anche al Greenissim Blues, grandi musicisti importanti. Sembra strano, ma ad Adri ci sono stati degli armonicisti bianchi che hanno fatto veramente la scena del blues mondiale. Doc Ross and John Lee Hooker, we all got a little thing, we call it the down home shakedown. Thank you. crossroads trying to flag a ride. Well, I went down to the crossroads trying to flag a ride. Well, no one seen to know me. Vai, vai. Stiamo diventando malinconici, stiamo chiudendo. Ma no, Carlo, come ti dicevo prima a microfoni spenti, io penso che c'è molta gente che ha bisogno di semplicità, di essere, come dire, di sentire parole semplici, di riappropriarsi di un linguaggio dove la parola sia fondamentale, sia soprattutto esplicativa. Cioè tu non puoi esprimere un concetto e farci un discorso di un'ora, devi andare subito al nocciolo. E qual è la cosa più importante? Dirla in semplicità. Se te una cosa ti piace, non è che dire ma sai veramente così, no, mi piace per questo motivo. È importante dire questo perché insomma ci sono passato. È importante dire che noi stiamo parlando di semplicità, non di banalizzazione, che sono due cose completamente diverse. Infatti io mi ricordo che all'epoca, quando iniziai a frequentare i giornali, un direttore mi disse: Carlo, devi farti capire anche dalla casalinga di Notaresco. Ed era vero. Poi però a lungo andare, secondo me, nel linguaggio giornalistico si passa dalla semplificazione alla banalizzazione, nel senso che poi l'articolo di cronaca di quello che fa purtroppo l'incidente diventa sempre lo stesso, poi dovresti cambiare il nome, il cognome o le iniziali e la cosa diventa sempre la stessa. Ecco, io direi c'è bisogno di semplicità, c'è bisogno di semplicità nella comunicazione, perché chi usa parole semplici e concetti semplici è quello che più sa. Quello che invece si è sempre diffido da quelli che usano concetti un po' complicati e termini un po' complicati, perché secondo me ti sta fregando o non ti vuol far capire bene o non lo sa nemmeno lui che cosa. Questo è il famoso linguaggio politichese, usato in tutte le forme. Quando non vogliono farti capire qual è il nocciolo della situazione, parlano in politica. No, a me succede esattamente il contrario, nel senso che io quando parlo ai politici alla prima sillaba già so dove vogliono andare a parare. Vabbè, poi alla loro fine hanno un linguaggio particolare. No, perché, nel senso che già li sai, no? Sì, già sai, perché difendono sempre la loro posizione, insomma, noi lo sappiamo. Però, come ti dicevo prima, Carlo, dobbiamo essere semplici, perché la gente ha bisogno di semplicità, ha bisogno di riappropriarsi di quel rapporto che è un rapporto basato sulle cose serene, tranquille, semplici, dove tu dici veramente come funzionano le cose. E noi stiamo cercando qui in radio di spiegare qualcosa che può essere anche trascendentale, perché il blues fondamentalmente è una musica di nicchia, diciamo che a parte gli appassionati, ma che si mette lì un disco di blues e solo ascolta, diciamo, magari io potrei raccontarti tante vicende che mi sono accadute durante la programmazione di Greenstein Blues. Addirittura un giorno mi entrò un negozio una signora e mi disse: Vincenzo, scusa, buongiorno, ti posso dire una cosa? Ma tu di tutti questi artisti che fai venire, che sono famosi, io vedo la piazza piena, ma Ramazzotti quando lo fai venire? È come quando che Ramazzotti, diciamo, poteva dipendere da me, insomma. Cioè lei non aveva capito lo spirito di quella manifestazione, ma come tanti non capiscono lo spirito di una musica, perché se quella musica veramente fosse capita dai tanti, quella musica in certo qual modo suona e canta l'umore della gente, i drammi, la vita giornaliera, l'amore, la passione, l'anima, canta il disagio. Ecco, noi quello che passiamo, noi che magari abbiamo anche il problema giornaliero, abbiamo il problema quando si parla di povertà in Italia, oramai molto molto, diciamo, numericamente molto molto vasta, e quello è blues, capito? Perché la povertà è blues, quello è il blues nostrano. Sì, io non ho visto mai un musicista ricco suonare blues. No, io l'ho visto No, credevo che tu mi dicessi: non ho visto mai un politico suonare il blues. Abbiamo visto Maroni che suonava. Sì, Maroni, io mi sono incontrato una volta con Maroni. Pure con Maroni, sì, no, io dai. No, Maroni, Maroni, Maroni suonava in una band delle parti sue, lui suonava l'organo, non era lui non, diciamo un discreto musicista, però aveva una band che viveva della presenza di Maroni, perché lui già era un grosso esponente della Lega e anche a Porretta Terme era considerato, perché sai com'è il personaggio politico che suona blues, fa cassetta e automaticamente ti può dare anche l'aggancio per accedere a qualcosa di particolare, perché dove accedono loro noi non accediamo mai, come quel detto che ho detto questa sera che mi piace ricordare. Suoceri e nuore dei paesi tuoi. Questa è bellissima, sai perché? Sì, questa ce la vendiamo. Questa ce la vendiamo tranquillamente. Possiamo anche andare 5 minuti più in là, Carlo. Tanto che ce ne frega. Tanto non è che abbiamo c'è il nostro produttore qua dietro che si capito? Incavola, tanto che non è che abbiamo. Anzi, io vi dico subito, ragazzi, domattina mi devo alzare prima delle 6. Prima delle 6 domattina e non dopo le 7, perché domattina alle 6:30 porterò il mio caro amico Corey Harris, grande musicista di blues. Dove lo porto? Lo porto a Pescara a prendere l'autobus, perché lui va a Roma perché ha una settimana di concerti in Spagna. E come dire, l'amicizia è anche questa: alzarsi la mattina presto, vedere l'alba, e poi Corey, vedo gli occhi estasiati di Corey quando dalla Cona vediamo tutto il mare e vediamo quel sole che sorge dal mare, e lui mi guarda e mi fa: quanto è bella Atri. Dico: vedi che quello non è Atri. Sì, ma da Atri è che si vede, mi dice lui. Ti rendi conto? Quindi tu ultimamente fai l'autista di Corey. Io faccio, come dire, io non lo so, Corey, tutto fare. Corey sembra che con me abbia trovato il governante. No, ha trovato il badante. E l'altro giorno mi è venuta in mente questa frase a proposito di badante, no? Andavo in villa e a un certo momento, passeggiando in villa, era verso le mezzogiorno, ho visto una persona che io conosco, una persona che purtroppo non è più autosufficiente, e lui stava in una carrozzella e dietro c'era una badante. E mi è venuta, infatti l'ho scritto questa cosa, me lo sono scritta per non scordarmela, ho detto tra me e me, ho detto: quando comprenderò la necessità di una badante, felicemente me ne andrò. Ma io già c'ero la badante, quindi me ne dovrei, me ne dovrei andare. Tu c'era la badante di tua madre, tu fai il badante a tua madre. Ma io usufruisco. Va bene. Anche questa è la radio, anche questa è la radio, sì, e qui da Cerrano Web. Carlo, ti prego di devi ripetere tutte le tutte le piattaforme su cui sulle quali noi siamo. Listen to my radio. Yo, yeah. E poi Radio Garden. Ma io credo che attualmente queste piattaforme, oddio, servono un po' a quelle che si scaricano l'applicazione e magari ci ascoltano, ci vogliono ascoltare dal telefono, perché adesso andiamo forti sul web, quindi cioè sulla nostra pagina Facebook, andiamo bene anche su Instagram, però su Instagram non abbiamo la diretta, quindi adesso il nostro mezzo principale è Facebook, e quindi da radio ci stiamo trasformando in TV radio. Però una cosa voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, anche quelli che magari non ci compaiono sul nostro, come dire, sulla nostra lista: mettete un like, soprattutto per darci coraggio, perché per farci capire che ci siete, insomma, altrimenti, come dire, quando arriverà l'estate il Vince e il Carlo se ne andranno al mare, insomma. No, non è vero, non ce ne andiamo al mare. Non potremmo bere più gli alcolici perché farà più caldo. Niente, allora salutiamo. Sì, io volevo salutare la nostra, come dire, la nostra sponsor di queste serate, che veramente ancora non si stasera fa. Stasera due sponsor. Due sponsor. La famosa grappa del poeta, con Giulia che ci ha concesso il piacere di bere questa grappa che è genuina, e poi abbiamo assaggiato la genziana di Marco, che, come gli ho detto direttamente a lui, gli ho detto è amabilmente straordinario, perché non contiene zuccheri e soprattutto è naturale. come noi, come la radio. Questa è naturale, una radio tutta naturale, Radio Cerrano Web, la radio del parco, Fresh Radio, come dicono i nostri stacchetti. Allora buonanotte, l'appuntamento è a giovedì prossimo con me, con Carl Barthelboom. Se vuoi venire, Vince, vieni, ti vengo a prendere. Mo vediamo, Carlo, io tu lo sai. Bruce Springsteen, ti piace? Sì, sì, mi piace Bruce Springsteen. Soprattutto poi, mi piace quando... Poi quando in coppia funzioniamo di più. Sì, poi mi piace Bruce Springsteen quando ripropone delle cover. Non so se tu hai in scaletta giovedì Jersey Girl, quel brano di Tom Waits. Certo, Jersey Girls. Girl, e poi, time and e poi corner boys. L'altro giorno credo che abbia compiuto 40 anni o 30 anni Because the Night, che sì, lui regalò invece a Patti Smith. Beh, come vedi, Carlo, i grandi artisti hanno anche l'ardire e il piacere soprattutto di scambiarsi le cose. Se tu pensi che il successo di Jimi Hendrix, Hey Joe, era stato scritto da un da un personaggio un po' minore, quel Bill Roberts, che aveva scritto questo brano, invece poi con Jimi Hendrix ha fatto la sua fortuna, perché con le royalty e soprattutto con i diritti d'autore è diventato milionario. Vedi, i casi della vita. Buonanotte a tutti, seguiteci, seguite anche i nostri podcast notturni se volete, se non vi prende sonno, se non prendete sonno.